questa strada è la mia e vado dove andrò disegnandomi una scia. Che effetto farà? Io provo a immaginare oltre il finestrino vedo mostri a volontà, ma se li guardo bene sono di plastica, è magnifico, sono di plastica, e se li guardo tutti quelli più belli e brutti è la realtà, sono di plastica. Oh, oh, gioia ed armonia. Se poi penso a quello che arriva sul più bello mi sento mistico, quasi fantastico. Se poi penso a tutto quello più bello e brutto è la realtà, sono in plastica. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah!